Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi segnalo un ritorno di un grande intellettuale, un grande economista italiano, Sergio Ricossa, di cui Rubbettino ripubblica il libro del 1997, Manuale di sopravvivenza a uso degli italiani onesti. È un libro che, nonostante gli anni siano trascorsi, non ha perso di attualità, è pubblicato appunto da Rubbettino, 128 pagine, 10 euro. Ricossa, dicevo, grande economista, ma anche grande scrittore, polemista e divulgatore di economia. E non soltanto. In questo libro Ricossa riparte dal dipolo, come lo chiama lui, di Prezzolini, che forse ricorderete divideva gli italiani in due categorie, i furbi e i fessi. Al furbo Ricossa contrappone l'onesto, che in realtà corrisponde al fesso di Prezzolini, che così lo descriveva. È fesso per Prezzolini se uno paga il biglietto intero in ferrovia, non entra gratis a teatro, non ha un commendatore, zio, amico della moglie, potente sulla magistratura, nella pubblica istruzione, eccetera. Non è massone o gesuita, dichiara all'agente delle tasse il suo vero reddito, mantiene la parola data anche a costo di perderci, eccetera. Questi è un fesso. Così appunto Prezzolini. Per Ricossa la categoria ha assunto una connotazione riduttiva e scrive che l'onesto, quando i furbi si strizzano l'occhio, sta per uomo limitato. Studioso onesto vuol dire non geniale, onest'uomo buon uomo vuol dire uomo credulone di rango inferiore. E là buon uomo, così per strada gli uomini di qualità si rivolgevano ai pezzenti. Insomma, esiste, scrive Ricossa, una legge di degenerazione. In Italia ogni virtù, non solo l'onestà, tende ad assumere significati peggiorativi. E allora l'italiano onesto, Ricossa, offre una guida per cavarsela in questo mondo di furbi e affronta vari capitoli che mettono la persona onesta a dura prova, dalla politica alle leggi, al fisco, all'economia. Il libro, insomma, è ironico, è geniale, pieno di riferimenti anche all'attualità che, ripeto, non hanno perso di freschezza, è davvero utile per riflettere sul carattere nazionale. Ma sentiamo su questo libro un commento del prefattore Lorenzo Infantino. Buongiorno a Lorenzo Infantino. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, Lorenzo Infantino, lei ha scritto questa prefazione al libro di Ricossa e a un certo punto sottolinea come questo sia un libro umoristico ma con una forte base teorica, come la definisce lei, e contrappone questa base teorica all'atteggiamento di coloro che scrivono per il simulare, la cito sempre, il pagamento del debito a una carriera. Allora, commentiamo questa contrapposizione? Molto volentieri. Sergio Ricossa è un uomo che ha avuto una vocazione nella vita, cioè la sua attività è venuta a coincidere con una sua scelta. Non ha scritto né ha insegnato per il dovere di insegnare o di scrivere, ma lo ha fatto perché aveva dei problemi a cui rispondere e ha cercato di far partecipare gli altri ai problemi da lui vissuti e alle risposte che ha cercato di dare, riallacciandosi a una importantissima tradizione culturale che è quella che deriva da Mandeville e dai moralisti scozzesi, tanto per intenderci David Hume e Adam Smith. Senta, qui nel libro di Ricossa emerge molto la capacità che ha avuto questo grande economista e grande scrittore di demistificare molti tabù, molti miti, molti luoghi comuni. In questo Ricossa è stato abbastanza un isolato nella tradizione degli ultimi, non soltanto degli ultimi anni in Italia. E questo credo che sia uno dei meriti principali di questo libro. Sicuramente Sergio Ricossa, se si fosse dedicato a scrivere testi teatrali, si sarebbe dedicato alla tragicommedia. La sua straordinaria capacità è quella di porre in evidenza, di estrarre l'aspetto ridicolo dalle vicende drammatiche della vita. Questa è una capacità straordinaria a cui si associa poi una capacità di scrivere che è notevole, perché solitamente noi incontriamo degli economisti che sono dei tecnici che scrivono in maniera poco comprensibile. Sergio Ricossa ha una grandissima capacità di comunicare con il pubblico, con dei suoi lettori. Nella sua prefazione lei affronta un problema che è di grande attualità, probabilmente non ne prevedeva l'importanza quando scriveva queste righe, ma insomma pone il problema dell'elevatezza morale degli attori e ponendosi la questione se questa serva nella vita sociale. Nella vita sociale servono degli attori appunto moralmente ineccepibili o che cosa secondo lei? Ma il problema fondamentale è il seguente, è che noi non abbiamo una ricetta per creare uomini dotati di particolare nobiltà. E Ricosta sa che tutto questo tra l'altro è pericoloso, perché se noi avessimo la perfezione tutti gli altri dovrebbero adeguarsi alla perfezione dettata da questo uomo supposto perfetto. Ed allora Ricosta giustamente dice: il più fondamentale problema sociale è quello di avere degli uomini che vivano in un contesto normativo in cui sia loro impossibile fare il peggio quando sono al peggio. Premesso che noi non abbiamo la formula per rendere gli uomini perfetti, tutto ciò che noi possiamo fare nella nostra vita è avere un contesto normativo, cioè dire delle regole che impediscano agli uomini, quando sono al peggio della loro vita o quando esprimono le cose peggiori della loro vita, di non nuocere al prossimo. Questa è, diciamo, la regola fondamentale per chiunque voglia ragionare di cose sociali. E a proposito di vita associata, c'è un capitolo di Ricosta sulla politica. Ricosta è molto tranchant su questo tema, dice che la politica va lasciata ai furbi, o meglio ai furbissimi, non è cosa da onesti medi. Sì, perché la politica si presta a che cosa? Si presta ad essere utilizzata da coloro i quali non hanno particolari motivazioni sociali, ad essere utilizzata a fini propri. E quindi Ricosta guarda con diffidenza l'universo politico e ovviamente utilizza una formula a lui cara, che è quella anche delle conseguenze inintenzionali delle azioni umane intenzionali, cioè a dire: noi innanzitutto come cittadini dobbiamo evitare di stendere la mano nei confronti del politico per chiedere, perché ogni volta che chiediamo il suo potere di intervento aumenta e quindi la nostra posizione si indebolisce. Ma Ricosta poi fa un'altra considerazione, appunto come teorico delle conseguenze inintenzionali, dice: e poi questi furbissimi che pensano di realizzare tutti i loro obiettivi e a volte sono anche vittime della loro furbizia, nel senso che le conseguenze di medio e lungo termine, anziché vedere realizzate ciò che loro si prefiggono, li vedono invece perdenti, perché la combinazione o la costellazione degli eventi non è a loro favorevole, ma è a favore invece di coloro i quali dovrebbero essere frodati o dovrebbero essere utilizzati, diciamo. E allora agli onesti medi che cosa rimane? Solo la lettura? Gli onesti medi rimane sicuramente la lettura di Ricosta, fa bene, perché questo manuale è veramente qualcosa che tutti dovrebbero leggere, e agli onesti medi indubbiamente rimane il suggerimento di Ricosta di non fidarsi di coloro i quali utilizzano le loro buone intenzioni, perché l'onesto medio è vittima del furbo nel momento in cui rende possibile la strumentalizzazione delle sue buone intenzioni. Quindi mai farsi strumentalizzare sulle buone intenzioni e soprattutto cercare di limitare il potere di intervento di chi ci vuole strumentalizzare. Grazie a Lorenzo Infantino, buona domenica. Grazie, buona domenica. Un altro grande maestro che ritorna è uno storico dell'economia, Carlo Maria Cipolla, morto nel 2000, di cui Il Mulino pubblica Piccole Cronache, 110 pagine, 10 euro, nel quale troveremo una serie di articoli pubblicati in gran parte sul Corriere della Sera, ma anche sul Sole 24 Ore, perché Cipolla fu anche collaboratore per questo giornale e scrisse una meravigliosa storia economica dell'Italia a fumetti. Qui si parla di tanti episodi storici presentati con levità, con brio e con piglio tutt'altro che professorale, tutti anch'essi molto attuali e utili. Per esempio, un capitolo è dedicato alla domanda: chi inventò il debito pubblico? Vi lascio nel dubbio, ma sappiate che il debito pubblico è nato in Italia. Si parla anche del tarlo rovinoso dell'inflazione, si parla anche degli investimenti finanziari di Giotto, il quale non era niente male perché riuscì, affittando dei telai, a far rendere la propria ricchezza del 120% all'anno. Come nota nella prefazione Giovanni Vigo, rileggendo a tanti anni di distanza gli articoli di Cipolla, si resta sorpresi dalla loro straordinaria freschezza, dalla deprimente attualità dei mali antichi che affliggono tuttora la nostra società, dai miti che non muoiono mai. E a proposito di miti, dice Vigo, Cipolla ne smonta uno in particolare, uno fra i più ricorrenti, quello dell'oro, e conclude Cipolla che se un avo del 300 avesse messo da parte un tesoro in oro per un suo discendente d'oggigiorno, oltre ad aver perso gli interessi relativi, avrebbe subito una colossale perdita in potere d'acquisto. Attenti dunque a trafficare con l'oro. Nel libro di Cipolla a un certo punto incontriamo anche Carlo Magno, che inventò la moneta pesante come strumento per rivitalizzare l'economia del Medioevo. Se volete approfondire la conoscenza di questa figura, con cui in un certo senso nasce l'Europa post-romana, vi segnalo il libro di Derek Wilson, che è uno scrittore inglese, Carlo Magno, Barbaro Imperatore, pubblicato da Bruno Mondadori, 290 pagine, 26 euro, tradotto da Valentina Ricci. Anche questo è un libro di divulgazione, volto a illustrare i tratti appunto di un personaggio che diventa un mito nel quale si riconoscono molti paesi dell'Europa centrale, a partire dalla Francia e dalla Germania. Perciò Wilson vuole, attraverso Carlo Magno, approfondire le origini dell'identità europea, dove per Europa egli intende una cultura, uno stile di vita condiviso da popolazioni che, pur custodendo gelosamente la propria sovranità nazionale, sanno di appartenere a qualcosa di più grande e, almeno da un certo punto di vista, più importante. Di questa Europa Carlo Magno fu certamente il fondatore. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso non subito di libri, ma di una mostra che si tiene a Milano, a Palazzo Reale. Si è appena inaugurata la mostra sull'Arcimboldo e andrà avanti fino al 22 maggio. La mostra è curata da Silvia Ferino, il catalogo è di Schirà. Il protagonista è questo grande pittore del Cinquecento, vissuto tra il 1526 e il 1593, famoso al largo pubblico per le sue immagini visionarie. Vi ricordate i faccioni fatti di fiori e di frutta? E non ci sono solo questi quadri nella mostra dell'Arcimboldo, ce n'è anzi uno che ha un diretto riferimento all'argomento di questa trasmissione, cioè ai libri. C'è infatti il ritratto di un libraio, un libro e un quadro del 1566, che potrebbe fare da simbolo visivo alla nostra trasmissione. Per questo ho chiesto a Marco Carminati di commentarcelo. Ciao Marco. Ciao Salvatore. Sì, la mostra di Arcimboldo che si tiene in questi giorni, in questi mesi a Milano, a Palazzo Reale, è davvero una mostra piena di cose curiose e sorprendenti. E tu hai fissato l'attenzione su un quadro che è una testa bizzarra, una testa ridicola, come si diceva allora, che in realtà sarebbe il ritratto di un bibliotecario. Questo ritratto a mezzo busto è fatto tutto ed esclusivamente con componenti di libri, cioè il pittore si è messo e ha composto questo ritratto mettendo appunto libri uno sopra l'altro, mettendo oggetti vari, mettendo dei calami al posto degli occhi, mettendo dei nastri al posto delle orecchie, insomma tutta questa composizione, questa montagna di libri, se la osserviamo ci accorgiamo riprendere esattamente una faccia antropomorfa, una faccia umana, e appunto il titolo ci aiuta a identificare questo personaggio che doveva essere appunto il bibliotecario. Beh, ma da dove arrivano queste stranissime composizioni? Beh, intanto bisogna tener conto che questo artista era un artista molto calato nel mondo intellettuale del suo tempo, e siamo nella Milano del Cinquecento maturo. Tutti quanti siamo abituati dai ricordi di scuola a immaginarcelo come un periodo terribile, una città dove ci sono gli spagnoli con un malgoverno assurdo, e poi c'è la famosa peste di San Carlo Borromeo, insomma una città dalla quale non rideva nessuno. Invece, al contrario, ridevano, e come. La città era piena di circoli letterari che coltivavano la burla, la grottesca, la poesia per prendere in giro, come un culto vero e proprio. Quindi c'erano all'ordine del giorno delle pubblicazioni che parlavano di arabeschi, cioè di invenzioni, dove venivano descritti volti, personaggi, utilizzando appunto oggetti diversi. Per cui si descrivevano donne dalla testa che sembrava una scopa, gli occhi che sembravano due uova, eccetera, eccetera. Quindi si giocava molto su queste parole. Questo dipinto del bibliotecario fatto tutto di libri non è altro che l'espressione di questa cultura, di questa cultura letteraria tardo-umanistica, che tra l'altro ha delle insigni precedenti. Per esempio Petrarca, in uno dei suoi sonetti, fa una di queste parodie descrivendo una donna con tutti questi oggetti al posto degli occhi, al posto dei capelli, al posto delle orecchie, al posto delle mani. Insomma, fa una composizione burlesca e grottesca. E poi, per venire appunto nel Cinquecento Lombardo, ha avuto personaggi come Paolo Giovio, Lomazzo, che hanno scritto questa strana letteratura. Questa letteratura, tra l'altro, era anche il riverbero della cultura diciamo così, dominante, la cultura dominante a Milano era la cultura asburgica, quindi noi eravamo legati appunto alla famiglia Asburgo, che era anche la famiglia imperiale, quindi a Vienna e a Praga c'erano gli Asburgo, e non a caso questo artista ha avuto una grande fortuna nelle corti del nord Europa, in particolare tra Vienna e Praga, con Massimiliano II d'Asburgo e poi soprattutto con quel Saturnino un po' matto che era Rodolfo II, che si circondarono di queste curiosissime teste, per cui noi dobbiamo immaginare questo bibliotecario come uno dei membri di questi circoli di intellettuali burloni, li chiameremo Oldi, che facevano poesia ma che amavano anche sorridere, e che è stato in qualche modo immortalato con questa sua mania dei libri, che molto spesso rivediamo anche contemporaneamente nelle persone che ci incontrano. Ci sono ancora questi bibliofili. Vi ricordo tra l'altro che nella mostra c'è anche un disegno di Arcimboldo, che è un autoritratto, e guarda caso Arcimboldo in questo caso si ritrae normalmente, però se aguzzate la vista vi accorgete che tutto il collo del vestito e soprattutto i capelli, che sembrano capelli normalissimi, in realtà sono dei cartigli, della carta arrotolata. Quindi anche lui gioca con se stesso, illustrandosi come un intellettuale che in testa ha solo le carte, le cose intellettuali, i fogli da disegno, che erano probabilmente, anzi erano sicuramente, gli oggetti con cui lui si trovava a lavorare tutti i giorni. Una descrizione che sembra richiamare appunto il quadro dell'Arcimboldo è quella contenuta nelle prime righe del libro di cui poi vi parlerò. Quando ero piccola, avevamo un amico di famiglia con la casa piena di libri. Erano così tanti che il suo letto sembrava costretto in un angolo. Tappezzavano tutte le pareti, dal pavimento fino al soffitto, e altri ancora erano sdraiati in orizzontale su quelli stipati negli scaffali. I loro dorsi erano pennellate di ocra e di arancione tenue, lilla, rosso e nero. Ce n'erano persino grosse pile che si ergevano come ciminiere in mezzo alla stanza. Questo è l'incipit del libro di Brenda Walker, Come i libri mi hanno salvato la vita. Storia di una guarigione, pubblicato da Cairo, 222 pagine, 16 euro, tradotto da Maria Eugenia Morin. L'autrice è una scrittrice australiana, ovviamente appassionata di libri, che dai libri si fa accompagnare in una fase molto difficile della vita, nella quale deve affrontare l'insidia di un tumore. Entrerà in ospedale e la Walker rifletterà sul libro che deve accompagnarla in questa avventura drammatica, di cui seguiremo l'evoluzione, fortunatamente a buon fine, e vivremo ogni fase della peregrinazione della paziente lettrice attraverso gli ospedali e le fasi di recupero, sempre accompagnati dai titoli che l'assisteranno e le daranno forza, non soltanto per affrontare il male, ma soprattutto per aggrapparsi sempre meglio alla vita. Il libro può essere anche una semplice passione, e allora vi segnalo di Alessandro Carrera, che è un italianista all'Università di Houston in Texas, il libro Bibliofilia, pubblicato ancora da Cairo, 144 pagine, 13 euro. Questi sono appunti e bozzetti sul rapporto talvolta davvero magico che si instaura col libro, con la lettura e con la scrittura. Un rapporto quest'ultimo che viene testimoniato nella sua forma quasi morbosa da queste righe dedicate a Hemingway. Uno scrittore, del quale non ricordo il nome e che allora era solo un ragazzo, un giorno andò a Cuba a trovare Hemingway per chiedergli qual era il segreto per diventare un grande romanziere. Non aveva il coraggio di fargli una domanda così diretta, ma sperava che Hemingway capisse il motivo della visita e glielo dicesse lui, spontaneamente. Con il cuore in gola si presentò a Fincavigia. Hemingway era solo in casa. E quando si vide davanti quel ragazzo pieno di sfacciataggine e timidezza, sospirò rassegnato. Il giovane scrittore era già pronto a girare i tacchi e andarsene, ma Hemingway lo fece entrare in casa, gli disse di accomodarsi, gli offrì da bere, gli parlò di caccia e di pesca, di corride e della guerra di Spagna, di Parigi e delle cose più bizzarre che aveva visto fare a James Joyce e a Gertrude Stein, ma non citò mai il titolo di un libro né alluse ai 9.000 volumi che traboccavano dalle pareti della casa. Il giovane lo ascoltava incantato, sopraffatto dalla riverenza, perplesso dalle continue divagazioni dell'ospite e incapace di formulare la domanda per la quale era venuto fin lì. Alla fine si alzò per congedarsi. Era già in strada quando Hemingway, dalla porta, lo chiamò. «Ehi ragazzo!» gli disse. «Se ci fosse un segreto, te l'avrei detto». Vi ho proposto queste righe su Hemingway perché vi voglio presentare un libro su un falso Hemingway, l'inedito di Hemingway. Questo è il titolo del libro di David Belbin, qui all'esordio di romanzi per adulti, pubblicato da ISBN, 234 pagine, 15 euro, tradotto da Silvia Rota Sperti. Sapete che esistono i falsificatori di quadri, ma si possono falsificare anche i testi letterari, come fa Mark Trace, il giovane protagonista di questo romanzo, che a tutti i costi vuole diventare anch'egli scrittore, e allora scrive un finto testo di Hemingway, che però sarà riconosciuto come autentico e pubblicato in una rivista letteraria, dando il là a una serie di colpi di scena che rendono il libro un autentico thriller letterario. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo di Gustavo Roldán, un autore spagnolo, Il signor G, è pubblicato alla Nuova Frontiera, 14 euro. Questa è la storia deliziosa di un miraggio che si realizza, quello di portare un fiore e la poesia nel mezzo del deserto, nel mezzo della vita. E con questo ringrazio Margherita Aina e Claudia Carusi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi segnalo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare tutte le nostre trasmissioni. A tutti buona domenica, appuntamento la settimana prossima.